facciamo. Durante il cammino di Gigi D'Agostino. D'ora in poi, ascolta ciò. ciò che vuoi dal tuo salotto ogni giorno alle 18, però M2O. Vota il brano che tu ascolta ogni giorno. A scegliere il sito www.ccitag.com e vota la canzonetta. Giorno ci gira intorno, c'è il cammino, questo è un buongiorno. Sabato 29 aprile 2006 alle 22:30 che suona Gigi D'Agostino, discoteca Compagnia Savonese delle Indie, via Chiodo 6R, Savona. a radio su F2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accendo la radio su F2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Accendo la radio su F2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accendo la radio su F2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Attento. Lento. Violento. Lento. Violento. Qualcun altro così bene. A volte sono un bastardo e a volte un buono. A volte non so neppure come io sono. A volte sono un bastardo e a volte un buono. A volte non so neppure come io sono. Mi piace qualunque qualcosa che è proibita, ma vivo di cose semplici, vivo la vita. A volte sono un bastardo e a volte un buono, a volte non so neppure come io sono. Il cammino di Gigi D'Agostino. È vero, è vero. Sintonizziamo nella frequenza capitolina. Nella frequenza capitolina. M2O. Celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Bella Gigi. Come a long, long way together. Through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Discoteca Max, via Laghetto 30, località Bressannone, provincia di Bolzano. Tu sei una persona capace di farmi tremare anche senza la tua presenza. Lo fai penetrando i miei pensieri, pensieri, e percorrendo con me i più oscuri sentieri. You let me down so many times that I forgot the very first. It's time to stop this useless relation. That's no good for both of us. I guess if you keep loving me, or do you love to see me cry? I can't afford this bad situation. testa a questa. Again. C'è ragione. Ma è l'artista? Gigi D'Agostino. No. Remember your first line. It's time to stop this useless relation. There's no reason to go on. I hate to waste my precious time. There is no way to change my mind. You let me down with callous emotions. Your behavior has to stop. Violento, violento meno. Dai, dai, dai. Non giochiamo. Aspetta, mi rivio un attimo. Ma dico molto. A passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Arrivedi, mi sono dimenticato tutto. Aiuto, ginnastica mentale. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Da una condizione di sonno molto piccola. Dai, che famo notte? Lento. Violento. Lento. Violento. Gigi D'Agostino, l'inventore del lento violento. Sì. E che mo ricordo io? Da mo che fa lento violento. È arrivato qui, ma che tanto è andato? So hurry up and hop and go, we selling this and down. We do this all the time. Right now we on the grind. So hurry.

the silence, come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Un disco anziano ci porta lontano. To be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain, words are meaningless and forgettable. All ever wanted, all ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Sigla, ma sfumare perché devo respirare.